Le piccole donne crescono. Capitolo primo. Quattro chiacchiere. Per riprendere il filo e poter assistere alle nozze di Meg con le idee più chiare, sarà bene cominciare con quattro chiacchiere sulla famiglia March. E qui mi si lasci fare una premessa. Qualcuno troverà che in questo racconto c'è un po' troppo amore. Questa critica io me l'aspetto dai lettori attempati. Non dai giovani, però, e a quelli risponderò come risponderebbe la signora March. Cos'altro volete quando in una casa ci sono quattro ragazze di indole gaia e nella casa accanto c'è un vicino giovane, brillante e pieno di vita? I 3 anni che sono trascorsi non hanno recato grandi mutamenti nella dimora serena dei March. La guerra è finita e il signor March è ritornato sano e salvo ai suoi libri e alla piccola parrocchia che possiede in lui un ministro ideale per qualità umane e per grazia divina. Un uomo mite, studioso, ma più ancora ricco di quella saggezza che va al meglio della dottrina imparata dai libri, di quella carità che abbraccia tutti gli uomini come fratelli, di quella pietà che fiorisce e diventa una seconda natura ispirando il rispetto e l'amore della gente. Queste doti, malgrado la povertà e l'onestà scrupolosa che precludevano a March il successo materiale, attiravano verso di lui le nature più elette, così, naturalmente, come un prato fiorito attira le api. E altrettanto, naturalmente, egli offriva loro la dolcezza di un'anima in cui 50 anni di dure esperienze non avevano instillato una sola goccia di amaro. La gioventù seria trovava in quel saggio dai capelli bianchi una serietà e una gioventù di cuore pari alla propria. Cuori femminili, turbati da un pensiero, da una cura, andavano da lui coi loro dubbi, coi loro dolori, sicuri di avere da quell'anima buona il conforto, la simpatia di cui avevano sete, e insieme alla parola severa il consiglio assennato, la luce per trovare la via della salvezza. Gli uomini superiori sentivano in lui uno dei loro. Agli ambiziosi la sua parola schiudeva orizzonti più nobili. Anche le persone più attaccate al mondo riconoscevano quanta verità, quanta bellezza c'era nella sua fede, sebbene rendesse poco. A un osservatore meno attento poteva sembrare che quelle 5 donne piene di energia fossero loro a mandare avanti la casa, e questo per tanti riguardi era vero. Ma l'uomo tranquillo, che se ne stava fra i suoi libri, era sempre il capo, la coscienza, la sicurezza e il conforto. A lui, nei momenti difficili, ricorrevano. In lui trovavano sempre un marito o un padre, nel senso più vero di queste due parole fatte sacre da secoli di venerazione. Nella mamma le ragazze confidavano col cuore, nel padre con lo spirito, e per l'una o per l'altro, che per loro sole vivevano e lottavano, esse nutrivano un affetto che cresceva con le loro giovani esistenze. Uno di quegli affetti che legano gli animi coi vincoli più dolci e non finiscono con la morte. La signora March è ancora vispa e piena di vita, sebbene un po' più grigia di come l'abbiamo lasciata. In questo momento la ritroviamo in gran faccende per Meg, sicché negli ospedali militari ancora pieni e nelle altre istituzioni per le famiglie orbate dalla guerra è molto sentita, non c'è dubbio, la mancanza delle sue materne visite. John Brooke, per un anno, ha fatto il suo dovere bravamente. Ferito e mandato a casa, non vollero più richiamarlo sotto le armi. Ricompense al valore non ne ebbe, ma se le era meritate col mettere a rischio eroicamente tutto ciò che aveva di più prezioso. E la vita e l'amore sono cose preziosissime quando l'una e l'altro si trovano nel loro fiore. Consolatosi del congedo, si dedicò a rimettersi in salute e a trovare un'occupazione che gli permettesse di assicurare un tetto a Meg. Col suo buon senso e con la indipendenza di carattere che lo distingueva, rifiutò le offerte generose che gli fece il signor Lawrence e accettò un posto di aiuto contabile. Preferì cominciare con uno stipendio modesto ma guadagnato, non correre dei rischi accettando un prestito. Meg intanto aspettava e lavorava. Si faceva ogni giorno più donna e sempre più esperta massaia e più carina. L'amore è un gran mago. Ma giovane com'era, quasi bimba, aveva grandi speranze e grandi ambizioni, perciò rimase un po' delusa di un inizio così modesto. Ned Moffat aveva sposato allora Sally Gardiner e Meg non poteva non sentire il contrasto fra la casa, la pariglia, i ricchidoni, le vesti dell'amica e ciò che aveva lei. Quell'amica Quelle belle cose le avrebbe volute anch'essa, ma non lo diceva. Bisognava riconoscere che quel poco di invidia e di malcontento le passava subito quando pensava a tutto l'amore, la tenacia, il lavoro che costava a John la casetta che li aspettava. Seduti l'uno accanto all'altro, nell'ora crepuscolare, discorrevano insieme dei loro piccoli progetti e l'avvenire si presentava sempre più bello e fulgente. Allora, Meg dimenticava gli splendori di Sally e le pareva di essere la ragazza più ricca e felice della cristianità. Joe non andava più dalla zia March. La vecchia signora si era incapricciata di Amy e la conquistò con la promessa di farle prendere lezione da uno dei migliori insegnanti di disegno. A queste condizioni, Amy avrebbe servito anche una padrona molto più esigente. La mattina al lavoro, il pomeriggio a divertirsi, e così tirava innanzi benone. Joe, intanto, si dedicava alla letteratura e a Beth, che rimase ancora debole e cagionevole di salute per un pezzo, anche dopo che la febbre era scomparsa. Proprio invalida, no, ma non tornò mai la bimba fiorente, rosea e sana di prima. Sempre piena di speranza, però, contenta e serena, attendendo alle modeste faccende che le piacevano. Sempre amica di tutti, sempre angelo della casa come era stata, anche prima che coloro che più le erano affezionati se ne rendessero ben conto. A Joe, finché l'aquila le pagava un dollaro la colonna, le sue sciocchezze, come le chiamava lei, pareva di essere una quattrinaia e tirava innanzi le sue novelle con diligenza. Ma nella mente, attiva e ambiziosa, le fermentavano grandi idee. Dentro la vecchia cucina di ferro, lassù, in soffitta, si ammucchiavano sempre più alte pile di cartelle scribacchiate, piene di cancellature, di pentimenti, di macchie d'inchiostro. Esse dovevano un giorno assicurare al nome di March un posto negli annali della fama. Lori, da bravo, entrò al college per far piacere al nonno e quando ci fu, se la prese con molta calma per far piacere a se stesso. Riusciva simpatico a tutti, grazie al denaro che spendeva, alle belle maniere, all'ingegno e al buon cuore, pronto sempre a mettersi nei guai per tirarne fuori il prossimo. Era, insomma, il genere di ragazzo che facilmente si guasta e, secondo ogni probabilità, si sarebbe guastato come tanti altri ragazzi promettentissimi se non lo avessero salvato dal male tre talismani potenti. Il pensiero continuo di un buon vecchio che viveva per lui, per vederlo riuscire, di un'amica che l'amava e si occupava di lui come di un figlio proprio, e infine, per ultimo, ma non era il meno, l'idea che quattro brave ragazze gli volevano bene, lo ammiravano e avevano fede in lui con tutto il cuore. Si intende che era sempre uomo, anzi ragazzo, e gli piaceva divertirsi e civettare, fare l'elegante, primeggiare negli sport acquatici, terrestri e sentimentali, secondo la moda del collegio e della stagione, che faceva camorra e gliela facevano, che parlava il gergo studentesco e che rischiò più di una volta di essere sospeso o addirittura espulso. Ma siccome la causa del fatto era sempre eccesso di esuberanza giovanile e allegria di carattere, se la cavò ogni volta col confessare apertamente, con lo scontare da uomo le punizioni. Non poco gli giovò quell'irresistibile potere di persuadere la gente che possedeva in grado elevatissimo. In fondo, cavarsela per un pelo era una cosa di cui andava piuttosto orgoglioso. Nelle sue lettere alle ragazze si vantava spesso e volentieri di averla fatta ad un maestro adirato, a un professore burbero e severo, a un camerata rivale. Gli uomini della mia classe apparivano alle ragazze come tanti eroi. Esse non si stancavano mai di sentir raccontare le prodezze dei nostri. Non di rado era loro concesso l'alto onore di scambiare sorrisi con quegli esseri superiori quando Lori ne conduceva a casa qualcuno nelle vacanze. Soprattutto Amy ci prendeva gusto e riscosse in breve la loro ammirazione. Madame Gella aveva appreso ben presto l'arte di servirsi delle attrattive datele dalla natura. Per Meg, di John come il suo ce n'era uno solo e perciò non aveva tempo di occuparsi d'altri signori del creato. Beth, sempre timida, guardava furtiva da lontano e si stupiva del modo che aveva Amy di farli trottare con tanta disinvoltura. ma quella che proprio si trovava nel suo elemento era Jo. Doveva fare grandi sforzi per non imitare atteggiamenti maschili, modi di parlare, gesti che a lei venivano più spontanei di ciò che le buone usanze impongono per le signorine. Era simpaticissima a tutti, ma nessuno se ne innamorava. Piuttosto erano ben pochi quelli che non sospirassero un tantino per Amy. E in tema di sentimento, qui viene a proposito il parlare un po' del nido. Era questo il nome dato da Lori alla casetta grigia e modesta che John andava preparando per quando fosse sposato. Il nome, diceva Lori, era indicatissimo per quella coppia gentile di innamorati che non facevano altro che baciucchiarsi e tubare come due tortore. Piccola, con un giardinetto alle spalle, aveva davanti un prato grande quanto un fazzoletto. Ma Meg voleva farci entrare fontana, vivaio di arboscelli e tanti, tanti fiori. Per ora la fontana era un vecchio bidone da fondi di tè. Il vivaio era rappresentato da giovani larici, pochi e non ben decisi ancora se vivere o morire. La profusione di fiori da tante cannucce piantate nel terreno, a ciascuna delle quali corrispondeva un seme sotterrato. Ma l'interno era delizioso. La sposa approvava e ammirava ogni cosa, dalla soffitta alla cantina. Il salottino era piccolo, ma fortunatamente il pianoforte non l'avevano, perché tutto intero non ci sarebbe entrato. Nel microscopico tinello ci sarebbero stati stretti in sei. La scala della cucina sembrava studiata appositamente per mandare a capofitto nella carbonaia la persona che serviva a tavola con tutto ciò che portava. Malgrado questi difettucci, e una volta fattaci l'abitudine, l'insieme era perfetto. Buon senso e buon gusto si erano uniti per dare un risultato assai soddisfacente. Niente lastre di richiamarmi ai tavolini, niente specchi fino al soffitto, né cortine di pizzo nel salotto. Mobili semplici, molti libri, un bel quadro o due, un gran cespo di fiori nel vano della finestra a sporgente, e qua e là i doni delle persone amiche, resi più cari dall'affetto che li ispirava. Non si creda che la psiche di marmo pario, dono di Lori, fosse meno bella perché la mensola che la sosteneva era stata messa a posto da Brooke, che un tappezziere avrebbe drappeggiato le modeste cortine di mussola con più grazia di quella che ci mise Amy, l'artista, e che ci fosse un guardaroba più ricco di voti, di parole buone, di speranze di quello in cui Joe e la mamma collocarono le poche cassette, gli scatoloni e i fazzoletti di Meg. Posso assicurare che la cucina, nuova di zecca, non avrebbe fatto più bella figura se Anna non avesse studiato, provando e riprovando una decina di volte, il posto di ogni singola padella o casseruola, preparando persino il fuoco da accendere appena la signora avesse preso possesso della casa. E non credo che mai una giovane padrona cominciò la sua carriera con una provvista di così tanti strofinacci, recipienti e sacchetti per tenere i vari articoli casalinghi. Beth ne fabbricò tanti da bastare fino alle nozze d'argento. Per la sola porcellana da tavola escogitò tre tipi differenti di salviette. Queste cose la gente che le compra fatte non sa cosa perde. Gli oggetti più modesti si illuminano di una loro particolare bellezza se escono dalle mani di una persona affezionata. Meg se ne doveva poi convincere ad ogni momento, perché nel suo nido ogni cosa, dal mattarello al vaso d'argento in mezzo alla tavola del salottino, rappresentava una dimostrazione gentile d'affetto. E quanti progetti di fedeltà nell'attesa, quante visite nei negozi, quanti sbagli divertenti e che risate per certi acquisti che faceva Lori. Quel burlone, quasi al termine degli anni di collegio, era ancora più ragazzo che mai. L'ultima trovata era quella di portare ogni settimana un oggetto nuovo, utile o ingegnoso per la giovane massaia. Una volta era un sacchetto di pinzette brevettate per la biancheria allo sciorino, oppure una grattugia speciale per la noce moscata, che però la mandava in pezzi appena si grattugiava. Un nettacoltelli che toglieva il filo a tutte le lame, o un congegno per spazzare che portava via senz'altro i tappeti e lasciava la spazzatura. Un sapone meraviglioso che risparmiava fatica e toglieva la pelle dalle mani. Cementi infallibili che attaccavano soltanto le dita dell'infelice che li adoperava. E ogni sorta di aggeggi di latta, dal salvadanaio giocattolo per soldini alla caldaia miracolosa che lavava ogni cosa a vapore, ma anche col pericolo di esplodere da un momento all'altro. Invano Meg lo pregava che smettesse. John lo prendeva in giro, lo chiamava Mr. Bazar, ma lui si era messo in mente di incoraggiare l'ingegnosità degli inventori Yankee e di fare che i suoi amici avessero il meglio di quanto essa produceva. E così, ogni settimana, arrivava con una novità inservibile. Finalmente ogni cosa fu pronta, persino i colori delle saponette che Amy voleva intonati alle tappezzerie delle stanze relative, e Beth apparecchiò la tavola per il primo pasto. Va bene? Vi sentite a posto? Vi pare che vi ci troverete? Domandava la signora March mentre faceva la sua entrata solenne a braccetto della figlia nel nuovo regno di questa. In quel momento si sentivano più che mai unite l'una all'altra. Oh sì, mamma, sono contentissima e vi ringrazio tutti. Sono tanto felice che non riesco ad esprimermi, rispondeva Meg con un'occhiata che diceva più di qualunque discorso. Se ci fosse almeno una persona di servizio o due, andrebbe tutto benissimo, disse Amy dalla porta del salottino dove era stata a decidere se il mercurio di bronzo stava meglio sul coso o sul caminetto. Ne abbiamo parlato molto con la mamma, disse Meg tranquillamente, e ho deciso che è meglio fare come dice lei, almeno per ora. Da lavorare ci sarà così poco che, con Lotti che mi sbriga qualche commissione e mi dà una mano di tanto in tanto, avrò appena da fare quanto occorre per non impigrire e per non rimpiangere la vecchia casa. Sally Moffat ha 4 persone, cominciava Amy. Oh, se le avesse Meg, interruppe Joe, non saprebbe dove farle dormire, e i padroni di casa dovrebbero alloggiare in giardino. Joe era in grembiulone azzurro e stava dando un'ultima lustrata alle maniglie delle porte. Il marito di Sally è ricco, disse la mamma, e in quella casa le persone di servizio ci vogliono. Meg e John cominciano modestamente, ma qualcosa mi dice che nella loro casetta non ci sarà meno felicità che nella grande casa dei Moffat. È un grosso errore quando una sposa giovane come Meg organizza la propria vita in modo da non avere altro da fare che cambiare d'abito, dare qualche ordine e fare conversazione. Quando ero giovane sposa io, quasi quasi avrei voluto che gli abiti invecchiassero presto, si strappassero, per il piacere di avere per le mani un lavoro utile. Che fastidio non aver da fare altro che ricamare, occuparsi del fazzoletto da naso. E Meg? Allora perché non andare in cucina a combinare qualche pasticcio come fa Sally? Si diverte un mondo, dice. È vero che alla fine viene fuori una cosa che non è mai ben fatta e la gente di servizio ride. Oh, anch'io cominciai ad andarci in cucina dopo un po', ma non per combinare pasticci. Lo facevo per imparare da Anna come van fatte le cose, in modo che le persone di servizio non ridessero di me. Allora ci andavo per divertimento, ma poi venne il tempo in cui fui ben contenta di avere non solo la passione, ma anche la capacità di preparare un vitto sano per le mie figliuole e saper fare da me quando non potei più tenere persone di servizio. Tu invece, Meg, cominci dall'estremo opposto, ma la lezione che impari adesso ti riuscirà ben presto molto utile. Quando John sarà più ricco, la padrona della più grande casa deve saperlo come van fatte le cose se vuole che gli altri la servano bene e non la ingannino. Sì, mamma, ne sono convinta, disse Meg, che ascoltava con molto rispetto la piccola predica. La migliore delle donne, quando si mette a parlare della casa e delle faccende, non la finisce più. È un argomento che assorbe e appassiona. Sapete che in tutta questa casetta da bambola il locale che amo più di tutti è questo? Erano giunte al piano di sopra nel ben fornito guardaroba. Vi trovarono Beth, venuta ad ammucchiare le pile di candida biancheria sui ripiani, lieta del bell'aspetto che prendeva l'insieme. Ma tutte ridevano sempre quando si parlava del guardaroba. La zia March, avendo detto che Meg, se sposava quel Brooke, non avrebbe veduto un soldo dei suoi, si trovò poi nell'imbarazzo, sbollitale col tempo l'ira, per trovare il modo di mancare al giuramento, di aggirare la posizione. E pensa e ripensa e escogitò questo. La signora Carroll, la madre di Florence, ebbe l'incarico di comperare, confezionare e cifrare una larga provvista di biancheria per casa e per tavola e mandarla come dono proprio. L'incarico venne eseguito puntualmente, ma il segreto trapelò e tutta la famiglia si divertì un mondo ad osservare l'aria di non saperne nulla che pretendeva di darsi la zia, la quale ufficialmente non fece altro dono che quelle tali vecchie perle già promesse da tempo alla prima sposa che sarebbe uscita dalla casa March. È una stravaganza anche tanta biancheria, ma almeno servirà. Una mia amica, quando ero giovane, si sposò con 6 lenzuola in tutto, ma era felice e contenta perché possedeva moltissimi sciacquabocca da tavola. E così dicendo, la signora March accarezzava una bella tovaglia di damasco, apprezzandone e godendone la finezza col tocco esperto della sua mano di conoscitrice. «Di sciacquabocca non ne ho neanche uno io», disse Meg. Ma poi aggiunse soddisfatta, e c'era di che. «Questa roba qui, però», dice Anna, «mi basterà tutta la vita». «Arriva Bazar!» gridò Joe dal piano di sotto, e tutti gli scesero incontro. La sua visita settimanale era un avvenimento nella loro esistenza tranquilla. Alto, largo di spalle, coi capelli tagliati corti, cappello di feltro a larga tesa, l'abito svolazzante, Lori discendeva a gran passi la via e, senza curarsi di aprire il cancello, scavalcava la siepe bassa e veniva dritto a presentarsi alla signora March. «Eccomi qua, mamma. Sì, tutto bene». Le ultime parole rispondevano ad uno sguardo bonariamente interrogativo della signora che nei begli occhi del ragazzo lesse la risposta che lei sperava, sicché la piccola cerimonia si concluse, come al solito, con un bacio materno. «Questo è per la signora John Brooke, con le congratulazioni e i complimenti dell'autore. Ciao, Beth, fa piacere vederti. Joe, e tu, Amy, ti stai facendo sempre più bella. Non esagerare, però». Mentre parlava, Lori consegnava un pacco di carta grigia a Meg, dava una tiratina al nastro di Beth, un'occhiata di ammirazione al grembiulone azzurro di Joe e di adorazione esagerata ad Amy. Quindi, una stretta di mano in giro. Parlavano tutti in una volta. «Dov'è John?» domandò Meg ansiosa. «È andato a ritirare la licenza matrimoniale per domani, signora». «Chi ha vinto l'ultima partita, Teddy?» domandava Joe, che con tutti i suoi 19 anni si interessava ancora di sport maschili. «Noi, si capisce, avresti dovuto esserci tu». «E come sta la bella Miss Randall?» gli chiese Amy con un sorriso pieno di sottintesi. «Più crudele che mai, non vedi come mi struggo?» E Lori si batté una manata sonora sul torace valido, tirando un sospiro da far piangere i sassi. «Vediamo l'ultima novità, apri il pacco, Meg», disse Beth, guardando curiosa l'involto che presentava tante punte e sporgenze. «Una cosa molto utile in caso di incendio o di ladri», spiegò Lori, mentre dal pacco veniva fuori una raganella da guardia notturna. «Quando John non c'è e ti viene paura, tu, Meg, ti affacci con questa alla finestra sul davanti della casa e ti metti a girare. In un batter d'occhio svegli tutto il vicinato. Non è una bella trovata?» E Lori diede un saggio della potenza sonora dello strumento che fece tappare le orecchie a tutte. «Così mi ringraziate, eh? A proposito, tu devi ringraziare Anna, Meg, che ti ha salvato la torta nuziale. Arrivava nel momento stesso che arrivavo io, e se Anna non la difendeva da prode, non si salvava. Ha un aspetto così promettente, tutta piena di prugne secche». «Oh, quando diventerai uomo, tu?» gli chiese Meg con aria da madre nobile. «Faccio quel che posso, signora, ma non di più, e temo che in questi tempi di decadenza 6 piedi o giù di lì di statura sono tutto ciò che si può pretendere da un uomo». La testa di Lori toccava quasi la lumiera sospesa. «Mi pare che sarebbe una profanazione mettersi a mangiare in questo salotto nuovo di zecca, e siccome ho una fame da lupo, io proporrei di togliere la seduta. La mamma e io andiamo ad aspettare John. Ci sono ancora le ultime cose da stabilire», disse Meg e se ne andò in fretta. «Beth e io andiamo da Kitty Bryant a prendere altri fiori per domani», disse Amy ponendosi un pittoresco cappello sopra i ricci pittoreschi e ammirando l'effetto nello specchio. «Vieni, Joe, non mi vorrai mica piantare anche tu, eh? Sono sfinito, senza aiuto non ci arrivo a casa. Oh, non toglierti il grembialone, anche se vieni con me, ti sta benissimo». Joe nascose nell'ampia tasca la cosa per cui egli aveva una speciale antipatia e gli offerse il braccio per sostenere il suo passo vacillante. «Senti, Teddy, ho da parlarti seriamente per domani», cominciò lei mentre si avviavano. Mi devi promettere, ma davvero, che ti comporterai bene, che non ne farai qualcuna delle tue, che non guasterai tutto con qualche scherzo fuori luogo. Ah, oh, non ho nessuna voglia di scherzare io. E non dirai delle sciocchezze quando devi star serio. Sei tu che le fai queste cose, io mai. Ti prego soprattutto di non guardarmi durante la cerimonia, perché mi faresti ridere certamente. Oh, per questo no, tu non mi vedrai nemmeno. Piangerai tanto tu che non vedrai niente. Oh, io non piango mai, eccetto che per qualche dispiacere grosso. Per esempio, quando un camerata parte per il collegio, eh? Insinuò Lori con un sorrisetto malizioso. Non ti gonfiare tanto, ho pianto un poco, giusto per far come le altre. Ah, certamente. E dimmi, Joe, com'è il nonno questa settimana? Di che umore è? Ottimo, ma tu devi averne combinata una, disse Joe severa, e vuoi sapere come la prenderà? Ma ti pare, Joe? Non hai visto come ho guardato in faccia tua madre? Non hai sentito quando le dicevo tutto bene? Come avrei potuto dirlo se non era vero? E tacque, impermalito. Già, hai ragione. Non cominciare a fare la sospettosa, allora. Soltanto c'è una cosa. Ho bisogno di quattrini, disse Lori rimettendosi in cammino, rassicurato un po' dal tono cordiale di lei. Tu ne spendi molti, Teddy. Ma cara mia, non sono io che li spendo. Se ne vanno, così, da loro, prima che io me ne accorga. Ecco, non ci sono più. Tu sei generoso, sei pieno di cuore. Ti chiedono un prestito e tu non sai dire di no a nessuno. Ce l'hanno raccontata la faccenda di Hansel e quello che hai fatto per lui. Però se il tuo denaro lo spendessi sempre così, non si potrebbe condannare, concluse Joe con calore. Oh, quello lì, di un monticello di talpa, ne ha fatto una montagna. Avreste voluto che lo lasciassi ammazzare di fatica un bravo ragazzo come quello, per mancanza di un po' d'aiuto? Non lo sai che da solo ne vale 20, quello lì, di fannulloni come noi altri? Non ti condanno per quello, no. Ma per quale ragione ogni volta che torni hai 17 gilet, cravatte non so più quante e sempre un cappello nuovo? Speravo che la vanità ti passasse col tempo, e invece ogni tanto ti ritorna fuori, con forme sempre nuove. Adesso la moda è di imbruttirsi, portare i cappelli che paiono la spazzola della lavandaia, l'abito a sacco, i guanti arancioni, gli scarponi a punta quadra. Se tutte queste cose brutte costassero poco, pazienza, ma costano quanto le cose belle, e non capisco che soddisfazione ci troviate. Con la testa gettata all'indietro, Lori rideva di gusto al sentire la tirata, e il cappellone gli cadde a terra. Joe, pronta, lo calpestò. Lui colse l'occasione per fare l'elogio del vestito confezionato, e intanto piegava quel povero cappello e se lo cacciava in una tasca. Non mi far più prediche da brava. Ne ho avute abbastanza per una settimana. Quando vengo a casa voglio stare in pace. Domani mi vedrete a pomice e sarete contente. Mi accontenterei se tu ti facessi ricrescere i capelli. Allora ti lascerei in pace. Tu lo sai bene che non amo le ricercatezze, ma non mi piace che la gente mi veda in giro con uno che ha l'aria di un aspirante professionista di pugilato, osservò Joe severa. Il vestire senza pretese si confà alle abitudini studiose. Per questo lo abbiamo adottato, ribatté Lori. Non si poteva certo accusarlo di vanità, giacché aveva volontariamente sacrificato la sua bella chioma ricciuta alla moda della testa rapata. A proposito, Joe, riprese dopo un breve silenzio, mi pare che il piccolo Parker stia prendendo una gran cotta per Amy. Non fa che parlare di lei e scrivere versi, ed è sempre tutto assorto. La cosa è grave. Non sarebbe meglio se la troncasse finché al principio, la passioncella? Lori parlava col tono autorevole di un fratello maggiore. Certo, sarebbe meglio. Per qualche anno non vogliamo più matrimoni nella nostra famiglia. Dove andremo a finire? Dove hanno la testa quei ragazzi? Joe aveva l'aria scandalizzata, come se Amy e il piccolo Parker non avessero più di 10 o 12 anni. I tempi cambiano, signorina. Lo domando anch'io, dove andremo a finire? Anche voi siete poco più che una bimba, ma sarete la prima a sposarvi e noi resteremo qui tristi e lacrimosi. E Lori scrollava il capo sulla perversità dei tempi. Io? Sta pur tranquillo. Io non sono di quelle che si sposano. Già, nessuno mi cerca ed è una fortuna. In una famiglia la zitellona ci deve sempre essere. La colpa è tua, che non dai modo a nessuno di farsi avanti, osservò Lori guardandola con la coda dell'occhio. Joe aveva la pelle abbronzata, ma si vedeva ugualmente che arrossiva. Tu non lo vuoi far vedere il lato femminile del tuo carattere. Se per caso uno se ne accorge e anche involontariamente mostra di apprezzarlo, tu fai come la signora Gummidge col suo adorato re. Subito la doccia fredda. Oppure cacci tante punte che colui non osa toccarti e nemmeno guardarti. È una cosa che non mi interessa, ho troppo da fare io per occuparmi di certe sciocchezze. E poi è così triste vedere disperdersi le famiglie. Ma tu non ne parlare più, eh? Questo matrimonio di Meg fa girare la testa a tutti. Non si fa che parlare di innamorati e simili assurdità. Se non vuoi che diventi intrattabile, cambiamo discorso. E pareva davvero che fosse pronta col secchio dell'acqua fredda, Joe. Qualunque fossero i sentimenti che provava dentro di sé, Lori non li espresse che con lungo zufolo in tono basso e con la sinistra predizione che le lanciò dietro quando si divisero al cancello. Ricordati le mie parole, Joe. La prima sarai tu.